Om, Daddy Om. Oui, Sopigiria. Sopigiria. Sopigiria. Sopigiria. Om, Om, Titiria. Sopigiria. Sopigiria. Sopigiria. Oui, Sopigiria. Sopigiria. Sopigiria. Sopigiria. Om, Om, Titiria. Sopigiria. Sopigiria. Sopigiria. Oui, Sopigiria. Sopigiria. Mi Sopigiria.